credo te, dolce sogno del mio cuore, astro d'or fulgido sei tu, bambina dai begli occhi blu, tutta adorna sei di riflessi e di splendore che fanno palpitare il cuore con tanto ardor, sì, con tanto ardor, in polvere di stelle vedo te, dolce sogno del mio cuore, ma perché tu non sei qui con me, dal sogno fuggi, dolce amore, io vorrei con te stare ad occhi aperti per sognare. Ascoltami tesoro, io vivo sol per te amore. Sol per te, amor.